Si sente nell'aria una sensazione strana, si sente di sera, si sente a primavera. Dolcemente scende sulle mie dita, dolcemente naviga fra le onde della vita e corre, correndo va sulle sirene, corre veloce ma nessuno ci crede. La notte ti insegna qualcosa di notte, noi sogniamo la notte ci si innamora della notte. Si sente nella timidezza quando canta una canzone, come quando parla di sé a una riunione. E si sente in chi c'è a casa mia, sfiderà a duello la tua polizia e correremo insieme sulle pantere. Stanotte vedrai, lo faremo insieme. La notte schiamo qualcuno stanotte, stanotte la scuola brucia di notte sei un altro uomo la notte che vola con noi e correremo insieme schivando le persone con le torce in mano in qualche pub un paio d'ore. Ma la notte la città è morta, nessuno qua sogna, ma poi cosa importa? E correremo insieme sulle gazzelle di notte, sei un'altra persona, perché di notte il sole è spento stanotte, stanotte qualcuno spera di notte che non ci trovi questa notte che vola con me.